Radio 24. Libera la voglia di fare. Radio 24 presenta Il sabato del villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Sono le 15 in questo preciso istante a Radio 24 ed è il momento del sabato del villaggio, il sabato pomeriggio di Radio 24, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Allora, come contattarci per tenerci compagnia per tutto questo lungo pomeriggio in diretta, appunto fino alle 18? 349-238-6666, 349-238-6666 è il numero per i vostri SMS ma anche per i vostri WhatsApp, e poi c'è il mio account di Twitter @MartaCagnola, anche il mio account di Instagram che è esattamente uguale @MartaCagnola, l'hashtag cancelletto ISDV come le iniziali di Il sabato del villaggio. Ma di cosa parleremo almeno nella prima delle tre ore del sabato del villaggio e poi di RadioTube? Allora, l'appuntamento con le tecnologie insieme a Rico Pagliarini. È arrivata in Italia Apple Pay. Di cosa si tratta? Ma glielo chiederò, non lo so ancora, ce lo faremo spiegare da Enrico. Parleremo di birra con il nostro gastronauta, ve l'avevamo promesso e lo faremo, parleremo di birra con il nostro gastronauta. Come sempre tutte le uscite al cinema del fine settimana, ma partiamo subito con il personaggio del momento. Ho deciso di resistere, ho detto no, questa qua non mi piace, mi era piaciuta la prima, mi era piaciuta la seconda, ho detto no, questa qua, io sono sicura che non verrò avvinta dalla terza canzone di Rovazzi, non ce l'ho fatta. Fabio, non ce l'ho fatta, sono pazza di questa canzone, ciao Fabio! Mi scusi! Sono impazzita, cioè, ma proprio che mi sale dal piede e mi viene tutto il movimento. Sì, ascolti la prima volta e dici, ma no, dai. No, dai, ho detto no, ma stavolta... La seconda volta, ma... Terza volta, mi fa volare. Esatto, no, allora la prima volta dici no, però aspetta che guardo il video, dici, oh, il video è proprio bello, però la canzone... Sai che non lo so se stavolta no, è un po' meno club, sicuramente un po' più pop radio, ha fatto un po' un cambiamento. E sì, solo però... che non ce la toglieremo mai più dalla testa, lo sai, vero? Un incubo. Vabbè, a me lo dici che è un anno che la sento. Ecco. No, senti, tu sei non so, guarda, un tempo eri un fenomeno, adesso basta, ormai sei Rovazzi. Farei prima un album o un film? Secondo me, non lo so, Vedremo, vedremo. Perché il video è veramente pazzesco. Ti piace? Dai. Mamma mia. Ci abbiamo messo dietro, cioè, un po' di energia. Io sai che erano anni che non vedevo un video in Italia fatto così bene, con la sceneggiatura. Si vede che tu hai studiato tutto, le inquadrature. Ma perché nell'ambito discografico è difficile anticipare i tempi, cioè organizzarsi prima, sapere già cosa si vuole, eccetera. Quindi è stato anche un po' un colpo di fortuna riuscire ad avere appunto i tempi giusti per fare tutto come volevo io. E no, sono contento. Era tutto come volevi tu, sei contento di tutto? Sì, cavoli, sì, è una cosa fighissima. Sì, eh? Sono molto contento. Beh, poi penso si evinca parecchio il fatto che vorrei andare a fare cinema. Si vede parecchio. Sì, sì. E secondo me l'urgenza qua c'è. Cioè, insomma, ma vorresti fare il cinema perché hai voglia di raccontare una storia o perché hai voglia di fare? Ma è quello che mi piace. Insomma, è un po' la mia passione. Vediamo se riuscirò a, insomma, esordire anche lì in modo. Consono. Non lo so, non ho vedremo. Io non vedremo. Ho dubbi, io perché questo ragazzo è pazzesco. Allora, pazzesco. terzo singolo, terzo video. Che impressione fa il fatto che, allora, i bambini sono pazzi di te da sempre, vabbè, ma questo è normale. Ma che ormai ci siano anche 30, 40, 50 e oltre che ripetono le tue frasi, che sanno tutto di te. Ma è sicuramente positiva, chiaramente è più difficile concepire lavori nel momento in cui la forbice si allarga, nel senso che bisogna cercare di trovare un modo per parlare a tutti senza fare casino, però dai, positivo, super positivo. Poi cioè, tu sei davvero riuscito a parlare a tutti, eh? Sì, sono contento, dai, bene, non mi sembra di dire cose strane o sbagliate. Altro che, cioè, secondo me tu sei veramente l'esempio di come i ventenni di oggi siano veramente fighi, cioè... Ovviamente non è che tutti possono essere Rovazzi, però che... Una buona parte. No, dai, che sai cosa c'è? Che tutti dicono che adesso i ragazzi si rimbambiscono col cellulare, che perdono il tempo coi social, e invece no, che voi avete una maniera di avvicinare la creatività che è pazzesca, cioè che avete degli strumenti, ma anche degli stimoli, ma anche delle curiosità che vi permettono di spaziare in maniera... Secondo me, cioè, poi è ovvio che uno, non mica tutti si hanno dei grandi ingredienti, fanno un grande piatto, non sono mica tutti, no, beh, chef, il web però... è una bella giungla, ti dà delle possibilità e l'unico modo poi per uscire da questa giungla clamorosa è trovare idee originali o comunque cercare di seguire i trend in modo originale. Non è semplice, nel senso che dà un sacco di speranze, ma dall'altro lato ci sono un sacco di persone che spendono tempo sul web e non vanno da nessuna parte, perché è proprio difficile nel momento in cui è un mercato saturo, capito? Come lo è il rap, come lo è certo. Le cose, insomma. Ma un sacco di speranze, ma soldi? No, perché tu dici un milione di views, ma no, vivo in un monolocale, beh, ragazzi. Ma quello in realtà è perché la gente è convinta che io facendo 250 milioni di views sia miliardario, certo, ma in realtà non è piscina. Così. Piscina! Va, no, grande! Sì, non è questo grande mercato. Se avessi fatto Andiamo a comandare negli anni 90, sarei, insomma, sì, arrivato adesso con una Rolls Royce. Eri atterrato direttamente in studio con l'elicottero, esatto, d'oro. Esatto. Vabbè, ragazzi, sono tempi diversi. Allora, siamo passati attraverso sui selfie, siamo sì. passati attraverso, adesso è il momento delle stories, delle storie. Sì. È questo l'aggancio di diciamo tecnologico che col quale è iniziato il pezzo, no? Appunto dopo l'epoca dei selfie mossi, adesso tutti fanno sì. storie ma solo sul cellulare. Sì, nel senso che tutti fanno polemiche, creano argomenti di discussione che muoiono dopo un secondo, sono proprio fuochi di paglia, però solo sul cellulare, quindi poi dal vivo non si fa più niente. Poi l'aggancio subito dopo è questa grande convinzione che mi piace poi aiutare, l'ho detto, perché appunto quando succedono queste tragedie incredibili nel mondo, come è successo a Manchester, come succede, molte persone prendono il telefono, fanno il loro post con l'hashtag, insomma, che gli piace di più, poi bloccano l'iPhone, lo mettono di lato, riposto bello tranquillo e si sentono a posto. Certo. Quindi c'è una convinzione di aiutare che in realtà è totalmente finta, insomma. Questa è stata anche la settimana degli haters che si sono scatenati, in particolare contro un personaggio televisivo, ma insomma Insinna. Più è Porello. Ma io sono peggio di Insinna, in realtà, fuori. Anch'io sicuramente. Ma non ho dubbi. Tu con gli haters che rapporto hai? Nessuno. Perché immagino che ti arrivino a... Gli haters sono una normale conseguenza del successo, eh. E poi dipende, perché ci sono casi in cui ci sono per motivi validi e altri in cui, vabbè, insomma, solo perché sei di successo allora ti odiano. Io ho un rapporto dove praticamente non li considero, cioè li quasi li prendo in giro, nel senso, perché nei miei pezzi poi metto sempre queste cose, queste frecciatine. Certo. non c'è, sul vivo tranquillamente, insomma. Grandissimo. Io me lo sono studiato bene il testo di Volare. Tra parentesi, sai che per trovare il testo ho googlato, no? Volare, mm-hmm, testo, e mi chiedeva: ma Volare volare Modugno o Volare Rovazzi? Che secondo me è finissima questa. Sì. Così adesso puoi scegliere se Volare Modugno o Volare Rovazzi. Oddio, non vogliamo toccare Modugno perché è un pezzo, no, di, anche perché ci sono stati anche titoli che hanno creato polemiche, ma non ne parleremo. Sì. C'è una cosa che non ho capito. Sì. Hai affittato una Ferrari che può solo accompagnare? Cosa significa? Cioè, è il nuovo sboccio solo acqua minerale? No, questo vuol devi dire spiegare. Il concetto di quella scena è il classico figlio di famiglia aristocratica che sta molto bene, che dice: sai, papà, non trovo un lavoro, sì, che mi piace, no? E il problema è proprio questo, che molti giovani sono disoccupati non tanto perché non c'è lavoro, perché il lavoro c'è, però non gli piace fare il lavoro, tipo il classico lavoretto umile, e invece qui magari di cui si occupa poi l'extracomunitario. E quindi: no, ma ha rubato il lavoro. In realtà non te l'ha rubato, non volevi farlo. E questo è un argomento di discussione, uno degli argomenti di discussione che ho inserito. Sì, perché tu... Cioè, poi l'ho detto in un modo molto web, perché dentro ci ho messo: può accompagnare solo come rafforzo della frase, può accompagnare solo, è questo biker che si chiama William, è un meme molto famoso sul web che ho deciso di inserire, mi piaceva inserirlo su quella fantastici frase. Fantastici, cameo, e vabbè, mi hanno fatto veramente ribalta, e ognuno si ribalta per i suoi, per quelli che capisce. Sì, perché ce ne sono un po'. Sì, cioè, sì, sufficienza. Cioè, io già con Maccio che mi invecchia in 40 secondi, sì, io ero per terra. Sì. Il problema vero è come atterrare. Cosa significa? Cos'è una grande metafora del successo? Allora, in realtà sono quelle frasi che scrivo a caso e che poi, insomma, devo trovare giustificazioni e il significato, però l'ho trovato, certo, se vuoi. Ma certo, poi, vabbè, il successo... Anche perché siamo alla 28 milionesima intervista su questo pezzo, quindi sì, no, ormai... Ma se ho superato i significati di Andiamo a Comandare, posso superare anche questo. Giustamente. Allora, no, in realtà... si può parlare di successo, si può parlare di tante cose quando tu fai successo ai tuoi sottoposti. Se in generale tratti male i tuoi sottoposti, o comunque ti comporti in modo scorretto con le persone, poi nel momento in cui quel successo viene a mancare, non atterri molto delicatamente, ma ti ritrovi sotto un ponte in 10 minuti. Potrebbe essere questa una chiave di lettura, ma ce ne sono tante, secondo me. Perché a me era quella che era venuta più spontanea, sì, insomma, un periodo in se cui ti ci ritrovi, voli. Ah no, io dico sempre che io non posso farmi male quando cado, sono già seduta per terra, che mi frega. No, però ognuno la legge, no, in base, certo, a quello. Mi era venuta questa, mi era venuta questa. Sì, non è male. Se ti piace la puoi usare. Sì, sì, me la uso. Sì, non è male. Vabbè, io non ho più aggettivi per questo featuring di Morandi, ma sono proprio finiti gli aggettivi, perché lui è oltre. Ma sono più i consigli che hai chiesto a lui o quelli che lui ha chiesto a te? Allora, in realtà giocavo in casa io. Quindi l'ho un po', tra virgolette, gli ho spiegato un po' quello che avevo in mente di fare, come volevo approcciare, che personaggio volevo da parte sua. Cioè, il suo personaggio doveva essere una sorta di Bruce Willis in Trappola di cristallo, quindi di fronte così, a un rapimento suo e di sua moglie doveva sembrare, insomma, sai che lui dice: ma sti due sfigati, no? E poi mi faceva dire, insomma, che tutto crolla quando compare Saluto Antonio, per smontare la serietà di quell'intro. No, mi sono trovato benissimo con Gianni, ha assimilato un sacco di miei consigli. Io ero quasi in difficoltà a dargli dei consigli, perché è Gianni Morandi, quindi che consigli bisogna dargli a Gianni Morandi? Però, insomma, si stava parlando di web, si stava parlando, certo, di un altro tipo di comunicazione. Ha accolto tutto a braccia aperte, a mani aperte. No, è stato fantastico. Video di Anna, che ovviamente è la numero uno, esatto, in the world. Esatto. Cioè, lei è un mito totale. Lei, sì, è assolutamente, sì, un mito. Hai fatto anche la Iena tu un mesetto fa, sì, un po' meno di un mese fa. Sì. è una strada nuova che hai deciso di aprire o volevi solo assaggiare? Volevo assaggiare, ma mi sono trovato molto bene. Molto probabilmente porterò avanti questo discorso. Adesso no, perché sono giustamente un po' preso con due o tre cose. Però conto di portarlo avanti, anche perché è un modo, insomma, è un ambiente in cui posso mostrarmi anche serio. Quindi mi fa piacere, insomma, poter riuscire a portare cose serie. Il cane sta bene? Il cane sta benissimo. Io dal video si vede che sta bene, però no, io mi preoccupo perché sai... No, sta bene, con la mia ragazza. Fantastico. Sì. Senti, come sarà la tua estate, visto che la nostra sarà solo lì a cantar volare, ci sveglieremo la mattina e diremo basta, basta, un incubo. Sì, ma adesso siamo ancora nella fase che è carina, poi tra un po', tra un mesetto, no, che palle ancora. E poi a settembre la gente che ti guarda in cagnesco. Sì, esatto, infatti vabbè. No, la mia estate sarà... ma è solita, insomma, come l'anno scorso, penso, di date, di cose, la vivo con pace, serenità e divertimento. Giocherai ancora coi social? Ma tu non sempre, no, ogni non tanto, quando ti va, quando ma io ogni tanto non sono fai un grande social. No, l'estate scorsa ci hai fatto un po' di video carini, però non sei uno che sta lì attaccato a farsi... No, no, non amo molto, non sono un grande fruitore, no. Vabbè, ogni tanto facili, così sappiamo come stai, cosa stai facendo, ci facciamo un po' di fatti tuoi, sì, dai. Sì, sì, volentieri. Promesso. Io lo adoro, ve l'ho detto, ho cercato di resistere, non ci sono riuscita. Mi dispiace. A me volare piace tantissimo. Grazie Rovazzi. Grazie mille a te. Il sabato del villaggio. Ed è il momento, dopo questa overdose straordinaria di Rovazzi, di parlare con il nostro gastronauta. Avevamo un tema in sospeso e io lo introdurrei così. Mi chiamo Homer e mi trovo qui perché la corte mi ha obbligato a venire. Tranquillizzati, Homer, con il nostro aiuto non toccherai mai più una birra. Allora c'è il nostro Filippo Aureggi in regia, che questo estratto dai Simpson l'ha praticamente doppiato in diretta. Cioè, non toccherete mai più una birra. No! Homer Simpson non ci poteva credere neanche Filippo in regia. E siamo abbastanza appassionati, così, con misura, con giudizio, però soprattutto in questa stagione un sorsino di birra. Che bella era questa musichetta che accompagnava la birra, una famosa birra nei tempi di Carosello. Allora ci colleghiamo, visto che avevamo lasciato il tema in sospeso, con il nostro gastronauta Davide Paolini. Ciao Davide! Ciao, ciao! E c'è anche un bellissimo libro scritto da uno scrittore francese, che è il primo sorso di birra, quindi possiamo anche mettere questo, insomma. Beh, birra è importante per l'Italia, la birra. Diciamo che forse tantissimi anni fa non eravamo così all'avanguardia. Oggi abbiamo ben 750-800 birrerie artigianali in Italia, tra l'altro di grandissimo livello, perché hanno vinto ovunque dei premi, medaglie d'oro al Gran Premio di Chicago, poi su tante altre tenzoni importanti in giro per il mondo. La birra italiana, la birra artigianale italiana, poi passeremo a tutte le altre birre ovviamente, ha delle caratteristiche molto peculiari, che qua e là è stata prodotta anche con l'aggiunta di un pizzico di territorio. E allora diciamo bere il territorio per la birra italiana, le castagne per esempio, il farro, e poi ancora tantissimi altri prodotti che caratterizzano molti territori italiani. Quindi è una birra che si è posta all'attenzione, ma ovviamente ci sono altri paesi che ci hanno imposto la birra negli ultimi 100 anni. Diciamo subito che la birra forse è la bevanda più vecchia del mondo, così si dice, forse ancora prima del vino. Beh, insomma, sono stati i belgi i primi conquistatori del mondo della birra. Pensiamo ai trappisti, perché c'è questa birra trappista che viene prodotta solamente in 6 abbazie, in 5 in Belgio e 1 in Olanda. È una birra molto molto particolare, viene ovviamente prodotta dai monaci trappisti, ma è una fermentazione, c'ha una rifermentazione in bottiglia, quindi ha una gradazione molto robusta e molto particolare. Non a tutti piace, però è una birra che nel tempo si è, come posso dire, messa all'attenzione. E bisogna che abbia un marchio, tra l'altro, che sia scritto Authentic Trappist. Sì, questo è importante, ma voglio aggiungere una nota italiana e lo faccio con tanto piacere, perché in Italia a Bucinasco, nella Basilica di San Paolo, ci sono uno sparuto gruppo di monaci, che ci sono ancora, sono veramente rimasti in pochi, che producono una birra, la Cassinazza si chiama, e questi pochi monaci hanno cominciato a bere birra. Vi racconto la storia perché il padre Gabriele, che ogni tanto mi viene a trovare col suo zainetto e mi lascia l'ultima birra, è veramente molto, ma molto piacevole questa visita, anzi non ascolterà questa trasmissione, però se c'è qualcuno gli riporti il mio saluto. È una birra molto interessante, che tra l'altro si trova anche a Milano in alcuni ristoranti, e questi pochissimi monaci che sono rimasti sono andati appunto dai loro colleghi trappisti per imparare la metodologia. Non possono produrre una birra trappista perché rimane il marchio rimane certo. In Belgio e in Olanda nelle sei abbazie, però loro hanno fatto questo perché non avevano più da andare avanti dal punto di vista economico. L'agricoltura non gli dava più niente e quindi hanno ben pensato di ricorrere alla birra. Quindi ve lo ricordo, Cassinazza. Quindi oltre alle birre trappiste in Belgio, il Belgio è la patria delle birre acide. Cosa vuol dire birre acide? Vuol dire senza lievito di birra aggiunto. Quindi non sono fermentate con lieviti coltivati come il lievito di birra, ma con il contatto di lieviti selvatici e batteri appunto durante il raffreddamento del mosto. Quali sono queste birre? Perché ognuno, tanti le hanno magari bevute e non si sono resi conto che rientrano appunto in questa tipologia. Devo dire anche questo, che già un paio d'anni, gli ultimi due anni, le birre acide sono quelle che sono balzate alla ribalta. Allora, sono le Lambic. Le Lambic, e poi sono le Gese, poi ci sono le Kriek, e innanzitutto queste birre molto particolari, appunto, che hanno una fermentazione spontanea, gli viene aggiunto, proprio per renderle meno forti, di solito viene aggiunto della frutta durante la fermentazione, e così queste birre prendono il nome di framboise se si tratta di lamponi, Kriek se di ciliegie, pesce di pesche, cassis di ribes neri. In particolar modo questa di ribes neri, quella della birra di cassis, diventa molto interessante. Devo dire che ne segnalo una del birrificio italiano chiamata la Cassisona, e devo dire che è una delle mie birre da aperitivo preferite. Quindi sono birre molto importanti, come dicevo, belghe anche queste. Poi c'è la Stout, che è la famosa birra nazionale irlandese, molto scura, con una schiuma molto abbondante e cremosa, che di solito gli irlandesi abbinano, ma questo anche fuori dall'Irlanda, si abbina molto bene con le ostriche. È un abbinamento questo molto, molto interessante. Anni fa era riservato agli irlandesi, ora invece c'è una diffusione di questo utilizzo di questa birra. Poi andiamo ancora, ci sono le lager. Cioè, la lager è una birra a bassa fermentazione, e forse verrebbe la tentazione di dire che è la birra comune, ma non è proprio così, perché di comune non c'è assolutamente niente in questo mondo. C'è sempre lo stile del birraio, e quindi è sempre il birraio che imprime ovviamente il suo stile. Il birraio in questo caso è sicuramente come l'enologo, anzi forse di più, perché mentre l'enologo può anche controllare le uve dal momento della maturazione ad altro, il birraio invece controlla proprio l'evoluzione, la fermentazione momento per momento. E ci sono anche in Italia ormai dei birrai veramente importanti, io ne cito uno, Airoli, del birrificio italiano, veramente molto, ma molto bravo. Poi andiamo ancora alla Pils. Ecco, la Pils è una birra che trae il nome famoso da una città, la città dove è nata, quindi la città ceca in cui è nata, e nella quale viene ancora prodotta la famosa Pilsner Urquell, che forse è la più famosa. È uno stile molto diffuso questo, uno stile birraio molto diffuso, infatti in giro si trovano moltissime birre appunto che vengono chiamate Pils, sono birre a bassa fermentazione, quindi Si bevono di solito in calici di frutta, ecco, questo è importante perché anche la birra ha per ogni birra un bicchiere diverso. Ah, ecco, noi non siamo abituati a queste sottigliezze. No, sempre di più, se uno va in una birra artigianale, una birreria artigianale, oggi ci sono birrerie anche molto avanzate da questo punto di vista, che così come il vino ti fanno vedere che ogni birra ha la sua, diciamo, al suo bicchiere preferito. Poi ci sono ancora le ale, quindi questa è una birra ad alta fermentazione, che poi ci sono tantissime sottotipologie come bitter ale, brown ale, mild ale, old ale, quindi ce ne sono tantissime e diciamo che sono anche queste sono molto molto apprezzate, soprattutto le ale belghe, quindi il Belgio ancora una volta torna, sono di forte contenuto alcolico. Poi ci sono ancora altre, c'è la lager. La lager è una birra a bassa fermentazione. Questa l'avevo già detta in realtà, quindi la birra lager l'avevo già detta. Uh-huh. Mi rimane l'abbazia, le birre d'abbazia, ecco, che non sono le trappiste, sono prodotte con un antico metodo dell'alta fermentazione, sono molto forti e molto corpose e si richiamano un po' alle birre che un tempo venivano prodotte dai trappisti, però non hanno il marchio di cui ho detto sopra, quindi sono birre prodotte con lo stesso stile ma non hanno questa, diciamo, autenticità. Quindi le birre dei miei frati di Bucinasco in realtà le possiamo chiamare birre d'abbazia. Perfetto. Quindi dicevo che le birre ormai vengono abbinate al cibo, ci sono moltissimi ristoranti anche super stellati. Tu hai detto poco fa la birra all'aperitivo. Sì, io cioè amo le birre all'aperitivo, amo molto quelle che appunto, quella framboise, al cassis, cioè queste birre che secondo me sono molto più adatte per aperitivo, però sai, se uno va in un pub inglese alle 6 di sera si beve, certo, si beve di tutto, oppure se si va in Irlanda sicuramente si beve di tutto. Io così ho detto una raffinatezza di setati di birra, ma non tanto quanto in certi paesi, però anche in Italia ormai la passione è in molti che preferiscono la birra al vino. Come dicevo, ci sono moltissimi ristoranti che usano nel proprio menù magari degustazioni introdurre una birra e quindi ormai la birra è stata anche accettata come fa parte del pasto, mentre un tempo, probabilmente tu l'hai detto prima, quando fa caldo magari la birra, si vede questa birra, questa schiuma, si vedono le goccioline del freddo fuori e viene voglia di birra. Però sai, le birre che abbiamo citato non tutte vengono servite, certo, fredde fredde come con una birra comune. Poi diciamo ci sono anche le birre cosiddette industriali. Oggi c'è, diciamo, una tendenza molto sulle birre con luppoli, 8-10 luppoli. Ecco, una cosa interessante, in Italia fino a qualche anno fa, forse 2-3 anni fa, i luppoli non venivano coltivati, quindi tutto il luppolo di tutte le birrerie italiane veniva importato, soprattutto dalla Germania. Mm-hmm. Oggi invece ci sono delle sperimentazioni, a Marano Modenese per esempio c'è una sperimentazione molto avanzata di un gruppo di ragazzi molto giovani che si chiamano Ops, la loro società, che stanno sperimentando con l'Università di Parma appunto le coltivazioni di luppolo. Quindi prima o poi si vedrà una birra tutta italiana, perché ad oggi non si può dire che tutta la birra è tutto italiano, perché ci sono alcuni ingredienti che assolutamente non sono italiani. Davide, allora il tempo è un po' volato in questa puntata, quindi per la chicca, per la scoperta rimando al prossimo Sabato del Villaggio. Bene. Però ci sono molte domande sulle birre, quindi secondo me prima della fine di questa stagione del Sabato del Villaggio un ripasso sulla birra lo faremo, perché ci chiedono delle vice, ci chiedono un sacco di cose sulla birra. Quindi prima della pausa estiva prepariamoci ancora, perché l'ho detto, forse sarà la stagione, ma un po' di voglia di birra è venuta a tutti. Cioè, gli esami non finiscono mai. No, infatti prepariamoci ancora un'altra puntata sulla birra. Grazie al nostro gastronauta Davide Paolini, un abbraccio Davide, al prossimo sabato. Alla prossima, ciao. Allora, noi facciamo una brevissima pausa perché sono le 15:29, tra poco è il momento di parlare di tecnologia. Non so se Enrico Pagliarini piomba qui in studio o sarà collegato da qualche luogo remoto dell'universo, non lo so ancora, lo scopriremo tra poco. Pausa. Tranquillizzati, Homer, con il nostro aiuto non toccherai mai più una birra. Il sabato del villaggio. Allora, io non vedevo arrivare Enrico Pagliarini, ero molto preoccupata. Allora, facciamo così, mi ha detto Filippo Aureggi che la canzone dei Dire Straits che avevo scelto ha un intro molto lunga. Vai, Filippo. Mi ha detto che sono 36 secondi, quindi io direi che è un lasso di tempo sufficiente, anzi ottimale, per far sì che Enrico Pagliarini, che è arrivato di corsa sulle scale, non possa prendere fiato. Sbagliate. Senti, guarda, perché c'era tutto questo... questa... tu respira, Paglia, no, tu respira, sono... Paglia. No, io sono qua tranquillo. No, sai perché? Perché sì, era fantastico questo pezzo, perché parlava, sai di cosa? Parlava di denaro, money for nothing. Money for nothing and chicks for free. Ma perché parliamo di denaro? Ciao Enrico, ce l'hai fatta. Buongiorno. Ma no, perché eri nel traffico? No, ci sono dei lavori in corso nella zona dove abito. Ah, ok. E praticamente ho dovuto fare, però io non usando molto spesso l'automobile, ma sì, l'avevo lì e dovevo in qualche certo modo spostare. Diciamo, ho fatto prima venire in automobile che in bicicletta. Sì. Questo è il succo. E quindi ho fatto girata a mezzo Milano per via di questi lavori, non li avevo previsti. Dai, ce l'abbiamo fatta. Visto che avete messo i Dire Straits, vi do un... se sono in una delle prossime volte ancora più in ritardo, c'è Telegraph Road, che dura 14 minuti, quindi ecco. Va, ve la mettiamo tutta. Allora, perché parliamo di money? Money for nothing? Beh, non solo for nothing, money for good, money. Sì, perché money for nothing non l'abbiamo ancora vista. Però, esatto. Parliamo di pagamenti elettronici in generale. Allora, una delle ultime novità degli ultimi giorni, diciamo di una decina di giorni fa, è l'arrivo anche in Italia, dopo un'attesa molto lunga, di Apple Pay, che riguarda, poi ne parliamo ovviamente, riguarda solo i possessori di iPhone e di altri strumenti di Apple, ma vorremmo parlare in generale di pagamenti elettronici e quindi di pagamenti che riguardano poi tutti coloro che possono fare dei pagamenti. Ma parliamo di cose anche molto popolari, molto semplici, dal semplice caffè che oggi si può pagare con strumenti digitali a tutta una serie di altre cose, sia offline che online. Io continuo a stupirmi e francamente non ho trovato delle risposte convincenti, se non altro, di file di persone che quando devono pagare ad esempio l'autostrada sono lì che aspettano perché non vogliono usare e non si sa per quale motivo non usino il bancomat. Allora, il bancomat è lo strumento di pagamento elettronico più diffuso in Italia, più vecchio, perché stiamo parlando di una cosa che ha alcune decine di anni, più vecchio e più diffuso e tra l'altro oramai gratuito per tantissimi conti correnti, certo, quindi non c'è più certo la scusa del... E quindi questo non francamente non lo capisco, perché uno deve fare la fila? Perché uno deve fare? Quindi... Oppure perché quando si va a bere il caffè, e quando si va a bere il caffè con Enrico Pagliarini succede sempre, lui dice ma perché uno deve avere gli spicciolini in tasca che magari non li ha mai, esatto, e ci sono altri metodi più rapidi per pagare? Esattamente, oltre al caffè faccio l'esempio di cose di uso quotidiano. Questa mattina sono andato al mercato, tra parentesi una delle cose belle di Milano sono questi mercati giganteschi, certo, meravigliosi. Al mercato uno dei problemi è il cambio, no? Eh sì, perché compri 2,15 euro, sì. Esatto, quindi questi resti. Con i pagamenti elettronici che oggi, diciamo, sempre più possono essere utilizzati anche per piccoli importi, questo problema non c'è più. Allora, ripetiamo però che non stiamo parlando della strisciata della carta di credito, stiamo parlando di qualcosa di più, come dire, immateriale ancora della carta di credito. Sì, allora, già gli operatori telefonici ci permettono di virtualizzare la carta di credito sullo smartphone, l'arrivo di Apple Pay darà un ulteriore impulso alla virtualizzazione della carta di credito o di un altro strumento di pagamento che può essere anche una carta di debito come il Bancomat nello smartphone. Ci sono dei sistemi alternativi, io ne cito uno non tanto su altri perché è abbastanza unico, che si chiama Satispay, che ha una rete di accettazione non ancora diffusissima, ma devo dire che a Milano ha una rete di accettazione che continua, che comincia a essere molto interessante, e in questo modo uno può andare e pagare anche appunto per piccoli importi con lo smartphone. Noi ci dobbiamo preparare e ci stiamo preparando a una nuova rivoluzione, che poi rivoluzione tanto non è, che è quella di integrare gli sistemi di pagamento a cui siamo abituati dentro lo smartphone. E uno potrebbe dire, ma perché devo mettere la carta di credito nello smartphone? Beh, allora, per mille motivi. Il primo è che ormai con lo smartphone facciamo un sacco di cose. Certo. Quindi, se abbiamo anche la possibilità di fare il pagamento, aumentiamo la possibilità di far cose con lo smartphone. Visto che alcuni citano il tema sicurezza, che non dovrebbe infatti nemmeno... Te lo stavo per chiedere sì, io, ma la sicurezza? No, ma non è più nemmeno un tema. Cioè, questi strumenti sono molto, ma molto, ma molto più sicuri del denaro contante. Cioè, che se ti fregano il portafoglio con 200 portafoglio. Euro, con 200 euro in tasca, e come fai a recuperarle quelle, no? Se ti sfilano lo smartphone, beh, intanto hai il PIN. Tutte le app che servono per far pagamenti richiedono comunque o l'impronta digitale o il PIN per essere sbloccate. Beh, infatti, quello della sicurezza è uno dei motivi per cui virtualizzare i nostri strumenti di pagamento nello smartphone lì automaticamente li rendono più questi sistemi sono più sicuri, proprio per questi motivi, perché tutto è protetto dal classico sistema con cui noi proteggiamo lo smartphone. E ovviamente la comodità è un altro fattore molto importante. Enrico, tu hai parlato dell'arrivo in Italia di Apple Pay. Che cos'ha di diverso? Che cos'è? Intanto bisogna avere un iPhone? Sì, un iPhone oppure un Apple Watch. Oppure alcuni tipi di iPad, però capisco che magari uno non gira con l'iPad e fa il pagamento con l'iPad. Però l'iPhone, comunque lo smartphone, è lo strumento principale che viene utilizzato, lo si può già utilizzare e lo possono utilizzare solamente coloro che hanno una carta di credito di debito emessa da Unicredit, da Carrefour Banca e da Boon. Boon è un nuovo servizio virtuale che serve proprio per virtualizzare carta di credito. Quindi diciamo non è ancora diffusissimo. Non è ancora diffusissimo, però diciamo tantissime banche, le altre carte di credito oltre a quelle emesse da Unicredit stanno tutti pubblicizzando Apple Pay e stanno dicendo arriviamo. Allora, da informazioni che io ho raccolto direi che tra giugno e settembre arrivano tutti. Quindi okay. Tutti avranno. Entro la fine dell'anno, diciamo, adesso non c'è nessun tipo di ufficialità, tutte indiscrezioni, dovrebbe arrivare anche Samsung Pay, okay. Che è un altro mondo legato a Samsung e quindi al mondo Android, che ti permette di virtualizzare questi strumenti di pagamento sullo smartphone. Ma quello che io vorrei fare anche oggi, ribadire ancora oggi, è invitare le persone a passare dal, che è anche un esercizio mentale, culturale, passare dal contante al denaro virtuale per mille motivi. Uno è la comodità, e partendo dal bancomat, che facciamo proprio questo esperimento. Adesso non dico, mi viene molto naturale, però fate l'esperimento, cercate di usare meno contante possibile. Io sono un disastro, non ho mai contanti nel portafoglio. C'è da dire che alcuni nostri ascoltatori ci stanno già scrivendo al 349-238-6666, soprattutto via WhatsApp. Allora, aspetta che te li leggo. Allora, in Italia c'è una quantità di persone sconosciute al fisco che lavorano solo in nero, quindi solo contanti. Sì, tutte le file in autostrada sono evasori fiscali. Ma sì, la maggior parte sono evasori fiscali. Questa poi è una stupidaggine. Poi ancora in Italia non si fida nessuno perché ci sono troppe truffe e poca tutela. Allora, posto che sì, effettivamente il problema esiste, ma noi stiamo parlando anche di un sistema che ti permette di pagare un caffè da 2 euro. È più che altro un esercizio mentale. Tra l'altro, devo dire che, visto che noi siamo amanti della tecnologia e ci piacciono queste cose, devo dire che tutto ciò è anche molto divertente. Cioè, io trovo molto più divertente pagare con lo smartphone piuttosto che tirare fuori Enrico ti porta a bere il caffè e per farti vedere quanto è bravo a pagare con Satisfay. Sì, cioè, infatti... No, cioè, anzi, Filippo non ci crede. Non ti ha mai portato a bere il caffè, Enrico? No, guarda, Enrico Pagliarini offre sempre caffè il caffè. Caffè a tutti, con... adesso passerò per quello che parlo. Offre sempre il caffè, non lo diciamo a tutti gli ascoltatori, se no si presentano sotto la sede del 24. Venite, ve lo pago tutto. Perché così fa vedere tutti gli strumenti elettronici per pagarlo. Io ce li ho tutti. È lo smartphone pieno di app. È vero. Una delle prime che mi avevi mostrato era la possibilità di pagare i mezzi pubblici. Ah, fantastico. ATM Milano, e io so che ci sono altre società in giro per l'Italia che ce lo hanno, oppure ad esempio cito MyCicero. MyCicero è un'app di terze parti che permette di pagare anche i biglietti della metropolitana a Roma e a Milano. Io uso biglietti solo sullo smartphone. Capita a volte che dico alla persona con cui sto telefonando: aspetta un attimo perché devo mettere il telefono sul tornello per passare nella metropolitana. Unico difettuccio, vabbè, però insomma. Allora, Enrico, traffico, perché sono in questo istante le 15:45, poi abbiamo ancora un pochino di tempo insieme perché poi parleremo anche di cinema. Il sabato del villaggio. Enrico, una raffica di messaggi al 349-238-6666. Intanto è chiaro che le banche mandano i loro servi a magnificare le bellezze del bancomat, che è uno strumento di controllo assoluto delle masse e servo delle banche. Sì, sì, io l'ho scritto 1984. Allora, questa persona dovrebbe venire in via Monterosa 91 a Milano. Io discuto con lui 3-4-5 ore, alla fine lo convinco. Fantastico. Ma figuriamo se io sono servo delle banche adesso, ragazzi. Allora, non si usano le carte per il caffè perché il barista non lo accetta a causa delle commissioni. Non stiamo parlando di carte, noi stiamo parlando del pagamento elettronico attraverso un servizio che il barista stesso ha, al quale il barista stesso ha aderito. Esatto. Ho imparato bene? Se è furbo, se è intelligente. Allora, diciamo che c'è tutto il mondo delle carte, il bancomat, le carte di credito, dove esistono commissioni che comunque sono in ribasso, e se i negozianti transano, cioè fanno molti pagamenti, le commissioni si abbassano o comunque possono chiedere di abbassarle. Quindi anche questo secondo me è un po' una tara culturale. Io vado da un fruttivendolo che non ha problemi, nessun tipo di problema, anzi lui dice no, facciamo molti pagamenti perché così se mi rapinano c'ho 4 soldi in cassa. Quindi è proprio una cosa culturale. Ci sono dei servizi come Satispay, quello con cui io offro il caffè a molte persone, che non ha commissioni fino a 10 euro. Quindi infatti i 2 o 3 baristi che sono qui vicino al Sole 24 Ore sono contentissimi. Non c'è, ci sono un sacco di proprio problemi culturali. Certo, capisco che stiamo parlando di denaro, quindi molte persone di fronte al denaro hanno un attaccamento al vecchio sistema, che continuerà per tantissimi anni, ovviamente. Ma voi vi hanno pagato per dirci di pagare tutti con l'iPhone? Io sto benissimo con i contanti. No, non ci hanno pagato, no. Se non in lo stipendio di Radio 24, sì. Che però non c'entra nulla. No, è che ci sono delle evoluzioni tecnologiche che dobbiamo registrare. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Ma ti voglio leggere... Però in generale, devo dire, è libero di fare quello che vuole, ovviamente. Però in generale è un vantaggio per la nazione il sistema elettronico, perché esistono dei calcoli fatti da vari istituti, anche da Banca d'Italia, sul costo del contante, che è un costo molto importante sia per stamparlo sia per movimentarlo. Ci sono i grandi supermercati che hanno un costo del denaro contante sia per movimentarlo, per trattarlo, sia per gestire anche i furti, che varia dal 2-3-4%. Quindi stiamo parlando di una cosa che costa un sacco di soldi. Il benzinaio, classica rapina purtroppo che noi registriamo al benzinaio, potrebbe essere tranquillamente evitata se si usassero solo strumenti di pagamento digitale, perché sappiamo che il mondo digitale è assolutamente molto più sicuro rispetto al mondo della carta. Mi piace quando il giornalista economico che c'è dentro Pagliarini affianca il giornalista di tecnologia. Allora, il messaggio di Simona che mi ha fatto molto sorridere: certo, bellissimo, ma io vivo a Ravenna, nei negozietti mi guardano male solo se tiro fuori il bancomat, figurati lo smartphone, ma è bello sognare. Ma certo, ha ragione, cioè non è che possiamo cambiare tutti nell'arco di pochi giorni e pochi anni, ci vorrà molto tempo. Però devo anche dire che il 50% dei POS che accettano pagamenti via carta sono ormai contactless, cioè funzionano con le carte che si appoggiano sul lettore. Ecco, questi sono già abilitati a tutti i pagamenti via smartphone contactless tipo Apple Pay. Ok, Enrico, tu che sei appassionato di cinema quanto me, anche se a te piacciono di più i film un po' d'azione, sì, lo sai che nei festival cinematografici tutti i film pagano con lo smart, tutti pagano. No, prima di vedere un film c'è sempre una sigletta. Cioè ogni festival ha una sigletta prima della proiezione di ogni film. Non lo sapevi questa cosa? Sapevo, è una cosa molto curiosa. Allora, mentre saluto Enrico Pagliarini e do l'appuntamento al 2024, ma soprattutto al super podcast di 2024, giusto? Allora vi presento questa sigletta. È quella che introduce i film di un, diciamo così, famoso festival francese. Beh, chissà se indovinate. Eccolo qua, ciao Enrico. Ciao. Normalmente questo è lo spazio dedicato ai film in uscita nel fine settimana, ma per questo fine settimana questa atmosfera un po' fatata della Croisette ci tiene compagnia, perché ci colleghiamo con Cannes, dove c'è per noi il nostro Franco D'Assisti. Ciao Franco! Ciao, ciao Marta, un saluto dalla Croisette fatata ma anche molto affollata e molto calda, devo dire, in questa edizione di Cannes 2017. Sì, mancano poche ore, poco più di 24 ore, domani sera il palmarès, come sempre, di un'edizione che non ha, diciamo così, lasciato estasiati per la presenza di qualche clamoroso capolavoro, tanto che anche a poche ore dall'assegnazione c'è ancora molto equilibrio per quanto riguarda il Toto Palma, diciamo così. Sono tre o quattro i film che potrebbero avere convinto la giuria presieduta da Pedro Almodóvar. Si fa il nome di Naomi Kawase, la regista giapponese, si fa il nome di un altro titolo, 120 battiti per il cuore, la traduzione italiana, che ha molto colpito all'inizio. C'è un film russo, Loveless, che potrebbe entrare nel palmarès. Insomma, si fa fatica a trovare il favoritissimo, però tutto sommato tre o quattro titoli sui quali potrebbe essersi incentrata l'attenzione della giuria ci sono. In un'edizione, dicevo, senza grandissimi picchi, devo dire, dove però i film interessanti sono stati parecchi, ma del resto le regole del cinema non possono essere riscritte ogni anno a botta di capolavori su capolavori. Sicuramente però un festival che ha avuto la capacità, e in questo Cannes è davvero unica, ha la capacità di autocelebrarsi in questo 70° anniversario. Diciamo, la fotografia è vera, la fotografia del festival è quella fatta da oltre 100 grandi nomi del cinema, ma veramente grandi nomi del cinema, che si sono fatti fotografare tutti insieme in uno degli shooting collettivi più grandi di tutti i tempi, proprio per celebrare la grandezza di Cannes in questi 60 anni. Franco, ma come sono stati accolti i film italiani al Festival di Cannes? Ma guarda, la sensazione è stata molto buona, devo dire. Sicilian Ghost Story, che era aperto la settimana della critica, è stato lodatissimo dalla stampa internazionale, ma con termini veramente assoluti, per i film di Piazza e Grassadonia. Ero in sala quando è stato presentato Un certain regard, L'intrusa di Leonardo Di Costanzo, 7-8 minuti di applausi scroscianti alla fine, con grande emozione da parte del cast. Insomma, l'Italia non era magari nelle... tra l'altro uscirà proprio in questi giorni, è uscito Cuore puro, altro film italiano presente alla Kenzen, e di le quali parleremo tra poco in trasmissione. Dicevo, non ci saranno stati film italiani in concorso, però l'Italia indipendente che si è presentata nelle altre sezioni ha veramente ben figurato. Beh, Cannes, a parte un accenno a un film in sala questo fine settimana, lo farei, perché questa settimana è molto piratesca, potremmo dire. Assolutamente la settimana dei pirati dei Caraibi, del quinto film della saga Disney, La vendetta di Salazar, uno dei più belli secondo me, tra l'altro, insieme proprio alla maledizione della prima luna. Si ritorna agli antichi fasti grazie alla coppiata, al ticket Johnny Depp, Javier Bardem, effetti speciali straordinari, veramente anche molto molto funzionali alla narrazione. Un filmone proprio, un filmone hollywoodiano che ha avuto il suo battesimo del fuoco in una straordinaria anteprima europea che è stata fatta a Disneyland Paris, dove, forse non tutti lo sapranno, è nata la vicenda dei Pirati dei Caraibi, perché il film prende le mosse da un'attrazione del grande parco divertimenti parigino. E quindi è tutto lì, è successo, e lì sono arrivati Johnny Depp, Orlando Bloom, Javier Bardem, per celebrare questo quinto capitolo. Noi abbiamo raccolto lì un grande reportage, anche in funzione del fatto che il 24 luglio riaprirà tutta restaurata l'attrazione dei Pirati dei Caraibi, e sarà sicuramente un successo insieme al film. Quindi ne parleremo diffusamente durante la Rosa Purpure. Grazie Franco D'Assisti, dunque l'appuntamento con te dopo il giornale radio delle 18 con la Rosa Purpurea. Ciao Franco. Ci sentiamo più tardi, grazie Marta. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Certe imprese sono possibili solo grazie agli dèi dello sport. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Io sono qui per raccontarvele, sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Il sabato del villaggio. Allora, il sabato del villaggio inizia la sua seconda ora, staremo insieme fino alle 18 perché la terza ora è quella che si trasforma in RadioTube. 349-238-6666 per i vostri sms e per i vostri whatsapp, anche per insultarci perché abbiamo parlato di pagamenti elettronici e servi delle banche e lo stato ladro che vuole sapere quanti soldi hai. Vanno bene anche i messaggi di insulti, 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp. C'è il mio account di Twitter che è Chiocciola Marta Cagnola, che è anche il mio account di Instagram, Chiocciola Marta Cagnola. Nella terza ora arriverà RadioTube, arriverà anche Daniele Bellasio, ma intanto gli argomenti della seconda ora del sabato del villaggio. Parleremo di fitness, anzi di wellness, e andremo insieme a Rimini. Per i consumi è il momento dei giocattoli, tutti i libri del momento sempre con Alessandra Tedesco, ma cominciamo facendo un salto indietro nel tempo. Sono volati via, brevi fotogrammi o treni in galleria, è un effetto serra che scioglie la felicità delle nostre voglie, dei nostri jeans. Che cosa resterà di questi anni maledetti dentro gli occhi tuoi? Anni bucati e distratti, noi vittime di noi. Ora però ci costa il non amarsi più, è un dolore nascosto giù nell'anima. Cosa resterà di questi anni ottanta? Cosa resterà di questi anni ottanta? Anzi, ormai, cos'è restato di questi anni ottanta? Perché Raff lo cantava qualche anno, ai noi, qualche decennio fa. Ma ogni tanto, scherzando, diciamo che non siamo mai usciti dagli anni Ottanta, che l'Italia è rimasta ferma agli anni Ottanta. Certo è che per gli anni Ottanta c'è sempre molta nostalgia di questo periodo allegro, colorato, o perlomeno ce lo ricordiamo noi o ce l'hanno raccontato così se siamo molto giovani. Io sono molto curiosa di vedere, non ci sono ancora stata, ma ci andrò prestissimo, ma cominciamo a farcela raccontare. Al Wow Spazio Fumetto di Milano, che è uno spazio veramente carino, veramente divertente, che si trova a Milano, questa mostra, anzi non mostra, omaggio agli anni Ottanta, che si chiama Ottanta Nostalgia, e ne parliamo con il curatore appunto allo Wow Spazio Fumetto di Milano, Enrico Ercole. Buongiorno Enrico. Sì, ciao a tutti. Allora Enrico, intanto perché è una non mostra? È una non mostra perché, insomma, mettere in mostra un decennio è un grandissimo sforzo, e soprattutto un decennio complicato come gli anni Ottanta, non sarebbe bastata la triennale per poter mettere in mostra tutti. Quindi diciamo che proprio il titolo l'abbiamo scelto per così, Ottanta Nostalgia, proprio perché è un viaggio indietro nel tempo, divertente, leggero, senza nessuna velleità di ripercorrere cosa sono stati davvero gli anni Ottanta, anche a livello sociologico, sociologico, politico, per quello che riguarda anche la storia mondiale, anche se ovviamente la cronaca ha una bella parte all'interno della mostra, perché per spiegare tante cose bisogna passare dalla cronaca. Per cui l'abbiamo definita non mostra, perché in realtà è un gioco, un salto indietro nel tempo attraverso i giocattoli, i fumetti, il cinema, i videogiochi, la musica, un po' leggero, diciamo così. Mi piace molto. Che cosa avete raccolto? Anche perché immagino che ci saranno delle chicche, delle curiosità. Beh sì, insomma, diciamo che qualcuno con una citazione un po' alta l'ha definita una mostra Madeleine, no? Perché cristianissimo, bellissimo. Sì, perché ogni teca emana odori, sapori che per ognuno di noi hanno significati diversi. Quindi diciamo che il museo è il museo del fumetto, dell'illustrazione e dell'immagine animata, quindi da lì siamo partiti. C'è molto spazio per quanto riguarda il mondo dei cartoni animati, che come sapete insomma negli anni 80 hanno avuto il boom definitivo. Perché sono arrivate le televisioni private che hanno cominciato a importare cartoni animati dal Giappone in maniera massiva, e quindi questo è un po' una parte importante, con dei rodovetri originali di serie storiche come Gig Robo d'Acciaio, Goldrake, Conan, anche qui diviso maschietti e femminucce, per cui negli anni 80 o si faceva una cosa o se ne faceva un'altra, eh no? Sì. Chi ascoltava gli Spandau Ballet non ascoltava i Duran Duran, chi guardava i cartoni animati delle orfanelle come Candy Candy di Pelin, Remy non guardava i robottoni, chi guardava il Tulipano Nero non guardava le di Oscar, chi giocava con Lego non giocava con i Playmobil, e questo è uno dei tanti giochi che ci sono all'interno della mostra. Ci sono dei versus che abbiamo voluto sviluppare, ed è un po' tipico di quegli anni lì, cioè ci sono delle bellissime collezioni di giocattoli provenienti da vari prestatori, per cui c'è il mitico castello giallo della Lego, oggi forse fa un po' sorridere vederlo così tutto squadrato, fatto di pezzettini regolari, no? Quando oggi sappiamo che Lego ha aperto all'universo mondo, no? Oppure c'è il galeone dei Playmobil mitico, no? Che insomma era un po' il sogno proibito di tanti ragazzini. Sì, me lo ricordo, il galeone dei Playmobil, come se fosse veramente la terra promessa, come per noi bambine certe ville di Barbie che erano. Esatto, e infatti ci sono anche quelle. Oh, ci sono... allora devo per forza venire a vedere, ancora a sospirare sulla villa di Barbie una trentina d'anni dopo. Assolutamente, poi ci sono i puffi, ci sono gli snorchi, ci sono i pacciocchini, ci sono i moncicci, ci sono tutti quelli che erano i giochi di quegli anni lì. Grandissimo spazio ai videogame, perché non dimentichiamolo, sono stati gli anni in cui i videogame sono entrati nelle case degli italiani con le prime console, no? Quindi ci sono ColecoVision, Sega, Commodore 64, si può giocare a un Pac-Man in un coin-op originale, quindi riprovare l'emozione di cos'era la sala giochi. Con certo. Giochi appunto come Pac-Man, Tetris, Donkey Kong, e poi ci sono le icone, c'è una teca dedicata a tutto ciò che sprizza anni 80, dal telefono col disco, che i ragazzini, i bambini più giovani quando entrano in mostra col papà o la mamma cercano di schiacciarlo perché per loro tutto va premuto e invece bisogna, e quando gli fai vedere come funzionano la prima cosa che ti dicono è: ma per fare lo zero ci voleva così tanto tempo, e lì ti deprimi perché ti senti una specie di stegosauro ormai da archiviare in un museo. C'è il cubo di Rubik, il gioco più venduto del decennio, più di 1 miliardo di pezzi venduti in tutto il mondo, c'è il Walkman, c'è la cassetta col nastro magnetico con dentro la Bic, che solo insomma chi ha vissuto quella cosa lì si ricorda che si faceva girare sulla Bic per risparmiare le pile del Walkman. Io ero bravissima, io ero una rotolatrice di musicassette, perché bastava prendere il ritmo, ci voleva un paio di secondi per prendere il ritmo, poi ragazzi ci voleva. Sì, ci si c'era faceva il polso, venire una, c'era il polso. Sì, una polsalgia, però insomma si risparmiavano le pile del Walkman. Sì. Poi c'è tanto cinema, tutti i film icona di quegli anni, da Una donna in carriera che ci racconta quegli anni com'erano e anche la moda. C'è tutta la parte per esempio dedicata ai paninari, con un manichino vestito da capo a piedi come era vestito il paninaro perfetto. Fantastico. Con tanto di prezzi, perché tutto quello che indossava il paninaro era modello io ce l'ho e tu no. Certo. Per via dei prezzi proibitivi di ogni singolo accessorio. Ci sono i Master of the Universe, che insomma tutti i ragazzini, no? Il erano quelli di He-Man. Ah, vedi, me li ricordo anch'io. Chi non voleva il castello di me. E poi ci sono i libri di Candy Candy, di Giorgi, insomma c'è veramente l'universo mondo, i Transformer, tutto quello che ha reso quegli anni colorati, da vivere, dove tutto era nuovo, dove tutto ci meravigliava. come dicevo prima, c'è poi anche uno sguardo alla cronaca, attraverso i pannelli si vivono quegli anni, per cui ci sono anche delle bellissime tavole di illustrazione che ci ricordano per esempio la tragedia di Alfredino Rampi, il bambino caduto, certo, nel pozzo artesiano, per cui Carlo Iacono per la Domenica del Corriere aveva fatto una bellissima attacca, forse il primo evento mediatico della storia della televisione. Oggi siamo abituati che quando succede qualcosa, collegamenti in diretta, all'epoca questa cosa era nuova e si sono vissuti tre giorni di delirio, quando si arrivava a scuola si facevano i temi, per cui insomma è stato uno degli eventi, così come la caduta del muro di Berlino che ha un po' chiuso questo decennio. 1986, anno importantissimo per il fumetto, esce Dylan Dog, quindi rinascita del fumetto italiano con grandissimi numeri sui ragazzi che tornano a leggere i fumetti mentre il papà era ancora impegnato sulle storie di Tex Willer. Chi voleva leggere il fumetto italiano leggeva Dylan Dog, chi si voleva dedicare al fumetto americano, quello un attimino più di nicchia, leggeva Il Cavaliere Oscuro con Il Ritorno di Batman. Beh, e insomma erano, sì, anni in cui sembrava davvero tutto, no, tutto nuovo, tutto da prendere così a manate, da vivere alla grande. E niente, insomma, abbiamo, allora, dedicato, Enrico, facciamo mostra così, ricordiamo le date perché è aperta fino al 1 ottobre, quindi avete, sì, tempo di organizzarvi, ma chiusa ad agosto. Sì, esatto, il museo chiude tutto il mese di agosto, dal 1 al 31, perché bisogna effettuare dei lavori, quindi sarà chiuso, però diciamo che c'è tutto il tempo, c'è tutto giugno, tutto luglio, tutto settembre. Da tenere d'occhio la pagina Facebook e il sito del museo www.museowow.it, perché durante tutta la durata della mostra ci saranno incontri, convention, raduni, tutto ovviamente a tema anni 80. Adesso è in corso proprio l'incontro sulla storia di Goldrick e dei robottoni. Che meraviglia, grazie Enrico Ercole. Io arriverò prestissimo al Wow Spazio Fumetto, secondo me anche Filippo, che in regia l'ho visto molto molto contento. Andiamo insieme, Filippo, andiamo a vedere 80 Nostalgia. Grazie Enrico Ercole, alla prossima, vi aspettiamo, ciao. Ciao Enrico, noi tra pochissimo ci ritroviamo perché dobbiamo parlare di libri. Adesso una brevissima pausa per il traffico. Il sabato del villaggio. Questa atmosfera, mi sento subito così proiettata in una discoteca fine anni 70, così, anni meravigliosi che io, insomma, non ho vissuto proprio in quel modo lì, ma me li posso immaginare, posso sognare. Stiamo parlando di libri o di musica? Di cosa stiamo parlando? Alessandra Tedesco, perché Figli delle Stelle? Libri stellari oggi, Marta. Libri stellari, siamo figlie stellari delle stelle. Perché? Guarda, perché? Ti ho portato proprio un filotto di libri che i fisici quantistici andrebbero veramente a nozze, no? Ma scherzi a parte, sono libri assolutamente divulgativi e quindi che tutti noi esseri umani normali che non abbiamo studiato fisica quantistica possiamo comprendere. Io poco, ma sicuro no. Ma li ho compresi io, quindi possiamo farcela. Ok, molto. Allora, è uscito bene il nuovo libro di Carlo Rovelli. È presente quello che aveva scritto 7 brevi lezioni di fisica? Ha pensato un bestseller pazzesco. Pazzesco. Sì. Tutti gli italiani appassionati di fisica. È stato venduto anche, i diritti sono stati anche venduti all'estero. Allora, ti ho portato, come dicevo, un filotto di libri di questo tema, perché, okay, c'è Carlo Rovelli con L'Ordine del Tempo, pubblicato da Adelphi, e quindi è il nuovo libro di Carlo Rovelli. Poi c'è Cercare mondi, esplorazioni avventurose ai confini dell'universo, scritto da Guido Tonelli, pubblicato da Rizzoli. Mi concentro prima su questi due, perché, allora, il libro di Rovelli si concentra, come dice lo stesso titolo, L'Ordine del Tempo, sul concetto di tempo. Noi siamo abituati, no, a pensare il tempo come qualcosa di lineare, no? C'è il passato, il presente e il futuro. Su questo siamo abbastanza d'accordo. No, hai sbagliato. Ma come no? Che secondo ma scusa, i fisici, passato, No, non è una linea, no. Non è una linea, no. Il tempo, questo Rovelli lo spiegava già in 7 lezioni di fisica. I fisici lo sanno da un secolo, ti posso dire, sì. da 100 anni veramente, non è un modo di dire un secolo. Perché il tempo non ha questo tipo di scansione, e tant'è vero che Rovelli ci dice anche che il tempo non fa parte della struttura fondamentale del mondo. Della serie ce ne possiamo fregare nel momento in cui cerchiamo di comprendere l'universo. Meno male che siamo alla radio e non si vedono le facce che faccio. Fingo di capire qualsiasi cosa, credo di avere urgenza di leggere questi libri. Se vuoi capire come è nato l'universo, a questo punto ti consiglierei di leggere Guido Tonelli, Cercare mondi. Perché? Allora, anche lui naturalmente si concentra sul concetto di tempo, sono d'accordo i due, perché insomma Tonelli, per dirti, è un docente di fisica, ma è stato uno dei protagonisti della scoperta del bosone di Higgs, quindi insomma mica pizza e fichi, diciamo così. Anche lui parla del rapporto spazio-tempo e così via, ma la cosa che mi ha affascinato è questa qua. Dice: da dove è nato l'universo? Sostanzialmente l'universo è nato dal vuoto. E fin qua già non ci siamo, direi. Perché uno pensa il vuoto è nulla, no? Se è vuoto è nulla. E invece no, il vuoto non è nulla. Lui dice: pensiamo al numero zero. Dice: il numero zero sarebbe l'assenza di numeri. E invece no, perché lo zero lo puoi ottenere sommando il più uno al meno uno. Se fai più uno e meno uno, hai zero. Quindi lo zero contiene in sé quantomeno il più uno e il meno uno, quindi contiene tutti i numeri, e così è il vuoto contiene il tutto in realtà. Allora, quindi l'universo è nato parte, io ho veramente l'aria sconvolta, ma è tutto estremamente affascinante. Ripetimi questo testo che allora devo il secondo leggere? Si intitola Cercare mondi, Guido Tonelli Rizzoli, il primo che abbiamo citato L'ordine del tempo, Carlo Rovelli Adelfi. Sono pronta per diventare una scienziata. Guarda, sono libri, al di là insomma dell'ironia che stiamo utilizzando, sono libri affascinanti perché ti fanno capire quanto siamo infinitamente piccoli nell'universo e quanto l'universo può essere, anzi gli universi, perché c'è la teoria multiverso, cioè non esiste un universo, un solo universo, ma più universi. Vabbè, adesso la smetto perché devo leggere assolutamente questi libri, mi hai conquistato. E allora, visto che ero nel trip, diciamo nel mood, chiamiamolo così, stellare, ne ho trovato un altro che è molto bello e interessante, si intitola Le stelle dimenticate, storia delle scienziate che misurarono il cielo, scritto da Dava Sobel, che è stata anche un premio Pulitzer, pubblicato da Rizzoli. Questa è più una storia, diciamo, che un aspetto di, che è un approfondimento di fisica. È la storia di questo gruppo di donne, cioè alla fine dell'Ottocento, l'osservatorio astronomico di Harvard iniziò ad assumere alcune donne come calcolatori umani. Queste erano esperte di matematica, astronome dilettanti, ma erano anche, non so, la figlia, la cugina del docente, la moglie, la sorella. E avevano dato loro il lavoro, come dire, quello più noioso, no? Quello che gli uomini consideravano più noioso. Cosa dovevano fare queste donne? Dovevano studiare le lastre fotografiche dove erano state, diciamo, scattate delle fotografie alle stelle. Quindi facevano tutti questi calcoli, studiavano queste lastre fotografiche. Insomma, questo gruppo di donne alla fine ha sviluppato un sistema di classificazione delle stelle che è stato accettato poi a livello internazionale ed è ancora in uso. Quindi dall'essere, come dire, un lavoro di serie B dato così per far che nessuno voleva fare, alla fine hanno fatto una scoperta scientifica decisamente rilevante. Ed è una storia di donne. Ecco, a chi lo consigliamo, Alessandra? A tutti quelli che pensano che la scienza sia appannaggio degli uomini. Bene, ottima questa. Altro consiglio, Alessandra? Adesso invece andiamo sul romanzo puro, un romanzo che mi è piaciuto assai, cara Marta. Si intitola Un complicato atto d'amore. L'ha scritto Miriam Taves, te lo pronuncio così perché è scritto Toevs, però si legge Taves in modo un po' insolito, pubblicato dalla Marcos y Marcos. Allora, lei è una scrittrice canadese, è diventata famosa perché sostanzialmente lei è cresciuta in una comunità mennonita, quindi una comunità religiosa in cui è vietato nell'ordine guardare la TV, e quindi tu saresti già fuori, leggere libri, sarei fuori io a questo punto, sì. Ascoltare musica rock, siamo fatti fuori insieme, anche la nostra Valeria Bernardi è dall'altra parte del vetro, Bere alcol, vabbè, io sono astemia, e fare sì. Sesso. Questi sono alcuni. Sono l'ultima, non diciamo nulla. No, siamo in fascia protetta. Insomma, in queste comunità mennonite sono proibite tantissime, veramente tantissime cose. E questa scrittrice, Miriam Taves, ha raccontato nei suoi romanzi appunto la vita in questa comunità, insomma, patriarcale piuttosto opprimente. Questo, Un complicato atto d'amore, era un libro che era già uscito nel 2004, pubblicato da Delphi, invece è stato adesso ripubblicato dalla Marcos y Marcos. La protagonista è una ragazza, Nomi, che ha 16 anni, vive da sola con il padre perché la sorella è fuggita con il fidanzato, appunto non sopportava questa vita. La madre invece è stata proprio cacciata dalla comunità, sai, quando si viene un po' scomunicati da queste comunità ristrette. E lei vive questo contrasto forte fra la voglia di andar via, la voglia di fare delle cose tipiche di una ragazza di 16 anni e il senso invece di attaccamento sia alla comunità che al padre. In altre parole, è un po' la vita di Miriam Taves, lo dice lei stessa. Tra l'altro, di Miriam Taves vi consiglio anche un altro libro molto bello che si intitola I miei piccoli dispiaceri, nel quale racconta il suicidio della sorella, perché lei purtroppo sia il padre che la sorella si sono tolti la vita. E lei, devo dire, è una persona straordinaria, una scrittrice molto molto brava, perché racconta anche questi episodi tragici della sua vita con grande ironia, addirittura con un senso di comicità pazzesca. E io veramente ve la consiglio con il cuore. Miriam Taves, questo romanzo si intitola Un complicato atto d'amore, oppure c'è anche I miei piccoli dispiaceri, entrambi pubblicati da Marcos y Marcos. Concludiamo con qualcosa per ragazze, Alessandra? Sì, guarda che cosa ti ho trovato, che belli questi libri. Ma allora, che bei libroni, voi non li vedete alla radio, ma sono dei bei libroni. Allora, non sono libri da leggere. No. Sono libri per scrivere. Quindi rivoluzioniamo completamente la prospettiva. Si intitola 642 idee per scrivere, pubblicato da L'Ippocampo Ragazzi, e poi vi ho portato anche 642 idee per disegnare. Allora, che cosa sono questi libri? Tempo fa, in autunno, era stata pubblicata la versione, diciamo, per adulti, no? 642 idee, insomma, per scrivere, erano, diciamo, contro il blocco dello scrittore. Dice, avete il blocco dello scrittore, vi diamo il là e voi compilate queste caselline, queste pagine, e vedrete che il blocco passerà. E adesso hanno fatto la versione junior, che io trovo ancora più interessante. L'ha fatta un collettivo che si chiama Collettivo 826 Valencia, è sostanzialmente una scuola di scrittura che opera a San Francisco, e si è inventata questo libro, diciamo, per bambini e ragazzi, diciamo dagli 8-9 anni in su. Quindi vedi, ci sono delle pagine con delle righe o degli spazi bianchi e loro danno il là. Per esempio, descrivi il colore rosso a un daltonico. Oppure, perché camminano tutti all'indietro? E così il bambino continua a scrivere. Oppure, il tuo cane ha deciso di imparare una lingua, convincilo del perché il francese sarebbe la scelta ideale. Beh, ma carino! Molto divertente. Per spaziare, quindi, con la fantasia. Eh sì, poi alla fine, diciamo, passerà un anno, qualche mese, e il bambino e il ragazzo si trova un libro manoscritto. Fantastico. L'altro invece per disegnare? L'altro è per disegnare, quindi ci sono delle linee, oppure ci sono anche qui degli input. La tua famiglia se fosse un albero. Bello, bello, mi piace molto. Quindi 8-9 anni in su. Sì, secondo me sì, quelli da disegnare anche meno, però insomma da leggere, da scrivere, diciamo dagli 8 anni in su. 642 idee per scrivere, L'Ippocampo Ragazzi. Alessandra, per concludere l'appuntamento con il cacciatore di libri. Devo fare in realtà un'errata corrige, Marta, sulla puntata scorsa. Sì. Ti ricordi che avevamo parlato di La felicità è portata di trolley, di Marta Perego, pubblicato da Di Agostini, insomma un libro un po' filosofico, scherzoso. Sull'arte del viaggio? Io dico sempre che chi legge libri sa le cose prima. L'ho saputa troppo in anticipo, nel senso che ho parlato di quel libro prima ancora che uscisse in libreria. Succede a volte, perché noi li riceviamo prima, li leggiamo prima, e non mi ero accorta della data di uscita. Quindi chiedo venia, ma La felicità è a portata di trolley, esce martedì 30 maggio. Allora preparatevi in libreria, e salutiamo ancora Marta Perego, l'autrice. Alessandra, cacciatore di libri. Cacciatore di libri, il sabato mattina alle 6.30, poi alle 22, e sempre in podcast. Ciao Alessandra. Baci. Il sabato del villaggio. Nel primo blocco della nostra seconda ora del Sabato del Villaggio abbiamo fatto un salto negli anni Ottanta con una mostra che appunto andremo sicuramente a visitare al Wow Spazio Fumetto di Milano, una mostra che si chiama 80 Nostalgia. Rimaniamo un po' in tema di anni Ottanta, dai, facciamolo almeno con questa canzone. Credo di aver capito già che questa pagina dei consumi stiamo per parlare di un giocattolo, di un gadget, di qualcosa che ci sta appassionando tantissimo. Ma lo chiediamo subito a Maria Luisa Pezzali. Ciao Maria Luisa. Ciao Marta, un saluto a tutti. Sì, parliamo di giocattoli in generale e non potevamo che partire dal fenomeno del momento, di cui so che tu hai già parlato. Ma soprattutto senza so di che me lo sono già comprato. Ecco, il fidget spinner. Il fidget spinner. Chi ha un bambino, un adolescente in casa, insomma, un adolescente sopra i 40. Esatto, sa già che cos'è il gioco del momento. Questa specie di trottola per le dita che va letteralmente a ruba. Marta, mi sono arrivati in questi giorni i dati di eBay che ha monitorato il fenomeno. Nell'ultimo mese ne è stato venduto uno ogni due minuti, con un incremento di quasi il 3000% su eBay solo, rispetto solo su eBay, rispetto al mese precedente 40.000 le inserzioni dedicate solo su eBay. Pazzesco, quindi parliamo pazzesco. Solo di una fetta. Tra l'altro, notizia di questi giorni, c'è anche l'app per il telefono che riproduce il funzionamento di questo antistress. Sai cosa ho visto io invece? Lo stampino per i biscotti. Ah, fantastico. Vabbè, questo per fare i biscotti a forma di fidget spinner, quello ti dico che quasi quasi te lo compri pure. Mi quello sa di sì. Ma sa tu di lo sì. So che a me, tra l'altro, Marta, è venuto in mente, non so perché, vediamo se mi segui in questa cosa, il Comboloi, lo scacciapensieri greco dedicato solo alla popolazione maschile, no? Che si tiene fra le dita. Sì, si è vero, magari c'è stata palline. qualche ispirazione. Beh, insomma, un Comboloi 2.0, diciamo, questa versione. Questo è il fenomeno del momento, in vista dell'estate, appunto. Però, se ci pensiamo, Marta, ogni anno è in qualche modo, ogni estate soprattutto, connotata dalla mania in termini di giocattoli, certo, del momento. Certo, no? Certo. Perché in qualche modo anche i giocattoli rispecchiano un po' il momento, ci raccontano, è storia di costruzione. Costume, ma anche per noi, sto pensando quando noi eravamo ragazzine, bambine, c'era l'anno degli hula hoop, mi ricordo, l'anno... li abbiamo avuti anche noi. I crystal balls. Crystal ball. quando facevamo i braccialetti con le perline, che comunque si compravano nei negozi di giocattoli. Esatto. Sì, perché... E poi, tra l'altro, tutti questi anni Ottanta sono tornati alla grande, certo, li conoscono, certo, anche i bambini di oggi. E è un settore, quello del giocattolo, che tiene, per fortuna, insomma, ha tenuto anche con la crisi. E allora, sulla scia di tutto questo, abbiamo cercato un super esperto che ci aiutasse in questa riflessione. Lo abbiamo trovato in Paolo Taverna, che è il direttore generale di Asso Giocattoli. Buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Buon pomeriggio. Allora, qual è lo stato di salute del settore? Iniziamo insomma dai numeri, poi però raccontiamo anche altre cose. Ma non va male perché il giocattolo, grazie a Dio, è sempre un prodotto che tiene anche nei momenti di crisi. Diciamo che gli anni peggiori li abbiamo messi alle spalle. Oggi fortunatamente possiamo dire che sia il 2015 che il 2016 hanno fatto registrare un più 4,5%, questi sono i dati che vengono rilevati, quindi non ci possiamo lamentare. C'è da dire che non è un prodotto che non va mai sopra le righe e fortunatamente neanche mai troppo sotto, quindi è un prodotto che compriamo sempre volentieri per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i nostri amici. Diciamo che il mercato tiene, via. Quali sono le tendenze del momento? Io ho visto un po' i vostri dati, ho visto questo più 30% per i collezionabili, che è una dimensione, una caratteristica insomma di giocattoli che ai nostri tempi, Marta, ad esempio, c'era solo in minima parte. Ma io mi ricordo i puffi. Vedi? Quella cosa lì me la ricordo. Quindi vanno forti. Ci sono ancora. Ah, sì. Ancora. Allora, devo dire che io l'ho detto l'altra volta. Mio nipote piccolo mi aveva chiesto di vedere la mia collezione di puffi. Gliel'ho mostrata, ma non glieli ho regalati. Li conservo gelosamente. Mi sembra giusto. Assolutamente, le collezioni non vanno tenute gelosamente. Diciamo che questo rispecchia un po' quello che era la tendenza dei bambini, non solo a tenere, no, le proprie cose, ma una volta c'erano i soldatini, io giocavo con i soldatini, adesso praticamente non ci sono più, ci sono i personaggi. E quando si dice collezionabili si va dai personaggi delle costruzioni, per non citare nomi, ma è molto intuibile il produttore, oppure i personaggi appunto come i puffi, eccetera, che si trovano in tutti i punti vendita. E un po' ci si ricollega anche al discorso che stavate facendo all'inizio sui fidget spinner, perché a tutti gli effetti questi sono, chiamiamoli antistress, chiamiamoli come vogliamo, ma alla fine se ne possono anche fare oggetto di collezione, visto che sta diventando un cult o qualcosa del genere. L'Italia è un paese molto dinamico per nuovi prodotti, del resto ricordiamolo, per tradizione siamo bravissimi creatori di giocattoli, abbiamo aziende storiche. E siamo ancora un paese produttore, questo è molto bello, perché mentre la maggior parte dei paesi europei ormai è un paese principalmente importatore, nel senso che comunque tutti i grandi marchi delle multinazionali fanno produrre in Estremo Oriente i loro prodotti, anche molti dei nostri, per carità, anche perché poi non dobbiamo dire che i giocattoli non prodotti in Europa non siano sicuri, anzi la sicurezza è sempre al primo posto per l'attenzione da parte delle aziende, però abbiamo tantissime aziende importanti, ne cito soltanto alcune, ma la Clementoni, la Lisciani, la Chicco, la Peg Perego, Quercetti, Villa, tutti i produttori che producono in Italia la maggior parte dei giocattoli, quindi abbiamo non solo una tradizione, ma una tradizione che continua, e questo è molto bello per il nostro settore, per il nostro paese in generale. Tra l'altro tutto il mondo digitale è entrato anche nei giocattoli, giocattoli di tradizione che si sono reinventati in chiave digitale, ci sono giocattoli per piccoli makers piuttosto che insomma, certo, per appassionati, certo. Quindi insomma viva i giocattoli e compriamoli per noi e per i nostri bambini. Grazie a Paolo Taverna per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a tutti e buon pomeriggio. Grazie, che bello parlare di giocattoli. Adesso abbiamo il nostro appuntamento settimanale con la nostra Cristina Lazzati. Chissà cosa ci ha scovato Cristina, eccola qui, buon pomeriggio Cristina. Buon pomeriggio a tutti. Allora, sì. Cosa hai scoperto per questo sabato del villaggio? Allora, è ora di programmare le vacanze, chiunque di voi stia pensando a un viaggio eccetera, è tempo almeno di guardare le tariffe aeree e di prepararsi economicamente a questo viaggio. Per prepararsi bisogna anche pensare alle carte di credito, ai bancomat che ci si porta, e grazie a facile.it che ha messo a punto un decalogo con dei consigli d'oro su cosa non sbagliare per non arrivare dall'altra parte del mondo e ritrovarsi oi boh che la carta di credito non funziona o che il banco non ci dà soldi. Quindi tremendo, cominciamo con la prima regola: consulta la banca prima di partire, e questo è un consiglio che mi sento di dare veramente dal profondo del cuore, perché non tutte le carte che funzionano in Italia funzionano all'estero e alcune che funzionano in Europa non funzionano fuori dall'Europa, quindi andare in banca e chiedere, e se per caso non fosse abilitata per il paese dove andate, fatela abilitare. Poi portare carta di credito, bancomat, tutte e due, meglio tutte e due, ma comunque il bancomat funziona dappertutto e molto spesso anche come carta di credito, però tenete conto che se invece volete pagare in contanti, e succede soprattutto nei paesi orientali dove di fatto ogni gesto d'acquisto magari è di pochi soldi, quindi le carte di credito non servono, però a quel punto ha un limite solitamente, quindi o fate ampliare il limite, certo, oppure comunque tenete presente questa cosa. Per quanto riguarda invece il pagamento, non ci sono differenze rispetto all'Italia, nel senso che si può tranquillamente pagare con le carte di credito. L'unica differenza è rispetto al cambio: in alcuni casi vi chiederanno volete il cambio in euro, perché risulta comunque che se partite dall'Italia avete come valuta l'euro, oppure in valuta locale. Meglio scegliere la valuta locale, così si evitano eventuali costi, non sempre ci sono ma ci potrebbero essere, di cambio. Quindi verissimo, sceglietela, ecco, questa ve la siete segnata. Furto, clonazione, smarrimento, cosa fare? Beh, chiamare subito, questo vale qui come da qualsiasi altra parte, chiamare e bloccare la carta. Sappiate che fino a 150 euro prima della telefonata li sborsate voi, dopo la telefonata invece è tutto rimborsato. Comunque il massimo che vi possono chiedere anche per quelle, come dire, per le spese fatte prima che voi vi accorgiate, quindi telefoniate al vostro istituto di credito, sono al massimo, cioè massimale 150 euro. Poi contanti all'aeroporto, questo lo sappiamo ormai quasi tutti, non serve portarvi i 1000 euro, i 500 euro e cambiarli all'aeroporto, perché solitamente i tassi di cambio lì sono più alti. E poi se avete una banca con l'app, scaricatevi l'app, perché così potete tenere più facilmente sotto controllo quello che succede con la vostra carta di credito. Però nel caso in cui le app non vi piacciono granché, piuttosto che non abbiate grande dimestichezza, scegliete comunque l'opzione di farvi mandare un SMS per ogni volta che fate un pagamento, così potete controllare. Normalmente gli SMS vi danno, anche se avete pagato in baht thailandesi, vi danno anche quanto avete pagato, l'importo in euro. Esatto. Poi mi raccomando, anzi si raccomandano loro, ma mi raccomando anch'io, non finisce dopo la vacanza, perché molti dei pagamenti che avete fatto con carta e quant'altro arrivano anche successivamente, teneteli monitorati, perché anche lì possono succedere magari dei pasticci, cioè dei pasticci nel senso di qualcuno che tenta di approfittare di questa cosa, e siccome chi lo fa è un professionista, sa benissimo che una volta tornate dalle vacanze, tirate un respiro di sollievo che tutto ha funzionato bene, normalmente si è un po' meno attenti ai resoconti delle carte di credito successive. Ecco, non rilassatevi subito, tenete d'occhio i 2 mesi successivi. Poi un ultimo consiglio invece per chi ha i figli che viaggiano da soli: carta prepagata, che potete nel momento in cui finiscono i soldi, eventualmente se se lo sono meritati, rimetterli, però almeno c'è un limite, ed è un limite che sia che il figlio o la figlia si dia le spese pazze, piuttosto che invece sia soggetto a qualche ruberia, dal vantaggio di non vedersi depredato completamente il conto corrente, che di solito è quello dei genitori. Ecco. Cristina, utilissimi questi consigli, devo dire che io, pur viaggiando tanto, qualcosa ho imparato. Devo dire che è bello avere tutto sotto controllo, e mi sembra un decalogo davvero efficace. Grazie a Cristina Lazzati, l'appuntamento al prossimo sabato. Ciao Cristina. Grazie a voi e ciao a tutti. Maria Luisa invece l'appuntamento con Essere Avere? Come sempre domani alle 22. Ciao Marta. Il sabato del villaggio. Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei. Tu che cercavi comprensione, sai, comprensione, sai, ti trovi lì in competizione, sai, competizione, sai. Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita, ma quel che leggi sul giornale e certe volte anche alla sfiga. Ci vuole un fisico bestiale, sai, speciale, sai, anche per bere e per fumare, sai, fumare, sai. Ci vuole un fisico bestiale. Allora, non lo so se ci vuole un fisico bestiale, sicuramente ci vuole un fisico sano, ci vuole un fisico che risponda a tutti i nostri bisogni, che ci supporti nella salute, insomma che ci aiuti a stare bene. Io comincio a darvi un appuntamento per il prossimo fine settimana, lo faccio perché lo so, certo è divertente parlare di una manifestazione che è in corso, ma uno come fa a organizzarsi per andare ad esempio a Rimini? Dall'1 al 4 giugno c'è Rimini Mini Wellness, Fitness, Benessere, Sport on Stage. Io la tentazione di andare a Rimini ce l'avrei, tenendo conto che il prossimo sabato siamo in diretta da Trento al Festival dell'Economia. Secondo me Trento-Rimini è fattibile, quindi comincio a informarmi su cosa succederà a Rimini dall'1 al 4 giugno a Rimini Wellness. Allora, ci colleghiamo con l'Italian Shows Director di IEG Expo, Italian Exhibition Group, che è l'organizzazione di Rimini Wellness da 12 anni, Patrizia Cecchi. Buongiorno Patrizia. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Insomma, a quest'ora noi mischiamo un po' perché tutto va bene. Allora, Patrizia, che cosa succederà a Rimini Wellness? Che cosa dobbiamo prendere appunti, non solo perché dobbiamo venire a Rimini, ma anche per sapere quali sono tutte le nuove tendenze in fatto di wellness. Allora, venite con scarpette e zainetto e una bottiglietta d'acqua e poi il primo giugno apre il grande villaggio del benessere, 100.000 metri quadrati con 400 aziende e poi 50 palchi, 20 piscine, 2.000 sessioni di allenamento, veramente tanta attività. Allora, diciamo che chi è attento a queste discipline sa che ce ne sono sempre di nuove, un po' perché la ricerca aumenta, un po' anche perché la varietà ci aiuta ad avere sempre lo stimolo. So che ne presenterete di nuovissime quest'anno. Certo, siamo nell'era dei social, nell'era dell'essere tecnologicamente connessi sempre, in una società che io dico fluida interculturale, quindi parola d'ordine è fusione. Si fondono tutte le attività. Vi faccio qualche esempio? Siamo qui per questo. Allora, fit paddling è un fitness che si fa in acqua con una tavola simile a un surf e con una pagaia da kayak, e quindi si fanno le attività in piscina su questo surf galleggiante, e questa è veramente una novità sia l'attività che questo surf galleggiante da piscina. E poi abbiamo il booty bar, quindi sbarra usata notoriamente per la danza, che viene utilizzata per fare allenamenti e attività per combinare forza, flessibilità. E poi ancora Onecor, come vedete sono nomi molto, molto particolari, certo, che mixano anche in questo caso musica e utilizzano lo step e il bilanciere, e con l'utilizzo della musica si attuano momenti di allenamento con cambi di velocità e musica particolare. E poi ancora, vado avanti, ne abbiamo tanti, calisthenics, che è un allenamento a corpo libero, si può fare in palestra, in casa, dappertutto. E poi in particolare una novità che a me incuriosisce molto e che è l'allenamento urbano. Allenamento urbano? Il nome tecnico Urban Mission Training, UMT. Però diciamo allenamento urbano, cosa coniuga? Sport, cultura e arte. Cosa succede? Una guida turistica si allena insieme a un gruppo e gira nella città e va a scoprire, conoscere le bellezze cittadine. Ci si dota di cuffie wireless e quindi si cammina, si corre e si apprezza e si gode la città, i monumenti, la storia e la cultura di quella città. Ma visto che veniamo a Rimini, quindi al mare, tante cose anche in acqua, ho letto. Sì, tante cose in acqua, fitness in acqua con cycling in acqua, step in acqua, tante attività nelle 50, dicevo appunto, nelle 50 piscine. E poi oltre all'acqua, voi sapete che anche è il periodo in cui il Pilates, che dalle attività di riabilitazione sta diventando l'attività per la preparazione atletica. E poi non solo, anche l'alimentazione vogliamo guardare un po'. È importante, perché esatto, insomma, dobbiamo mens sana in corpore sano, ma se non ci alimentiamo bene, se ne parlerà Rimini Wellness? Sì, ci sono nelle 4 giornate incontri con cuochi che presentano dei piatti bilanciati da un punto di vista degli alimenti, e ci saranno nutrizionisti che faranno presentazioni, quindi show cooking, e poi non so, può essere accattivante, non so, la colazione dello sportivo, il wellness cocktail, il succo energizzante, e poi per chi non riesce a fare le diete, la strategia per le motivazioni per cominciare ad attivarsi per un'alimentazione corretta. Quindi ce n'è veramente per tutti. Fantastico, dall'1 al 4 giugno alla Fiera di Rimini, Rimini Wellness. Grazie a Patrizia Cecchi per essere stata con noi. Grazie, è arrivato in treno, cioè il treno che arriva a Rimini Fiera e scendete dentro i padiglioni e dentro il villaggio wellness, il grande villaggio wellness. Grandissimo. La riviera è aperta e attiva e continuano le feste dopo la chiusura dei battenti. Ma non avevamo dubbi, perché se non si fa festa a Rimini, dove si fa festa? Grazie Patrizia, presto! Vi aspettiamo! Che meraviglia! No, infatti l'idea del treno è ottima, così non diventiamo nemmeno nervosi per lo spostamento, le code. Fantastico! Rimini Wellness, ve l'ho detto in tempo, per organizzarci per il prossimo fine settimana. Io lo sapevo che Filippo Aureggio avrebbe messo Physical di Olivia Newton-John. Filippo, ma c'è un ascoltatore dotato di pochissima ironia che ci ha scritto: sembrate la parodia di una trasmissione radiofonica anni 80. Ma stiamo scherzando su questo tema? Su, un po' di allegria. Adesso c'è il giornale radio, poi saremo insieme con Radio Tube.